Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. In questo 5 maggio i Fussi come mobile l'hanno incarcerato il sindaco di Londra. Lo sai che è stata composta per questo, la famosa, no, è la morte di Napoleone, come ovvio, 5 maggio. Sant'Irene da Lecce, Sant'Irene che è la santa dei figli perseguitati dai padri, perché il padre, Sant'Irene è un po' bella, provocatrice, meridionale, insomma, e suo padre disse: vabbè, senti, chiudo in una torre. Poi sei pure cristiana, devi tornare al culto dei nostri padri. E lei invece, siccome faceva cincischiava, un po' civettella, insomma, l'hanno fatta santa, ma lei era una civetta, questo è il punto. Detta, il padre naturalmente passa come il persecutore, perché effettivamente poi... Insomma, se l'avesse in una torre, un po' persecutore lo sarà. No, il problema è che poi le hanno tagliato la testa, però... era pure un padre un po' umanesco, per così dire. Allora, tra i santi dal nome invece diffusissimo intorno a noi, Mauronto, Teuteria, Avertino, non Aventino, Avertino, Brittone, Gioviniano. Nel 1362 nascono le poste italiane, quindi nascono subito dopo l'Italia unitaria. Nel 1946, in questo giorno, la prima schedina della Sisal. E quindi è la giornata internazionale delle ostetriche. Ah, giustamente dicono anche San Poborski, questa forse tu non te la ricordi, 5 maggio, quando l'Inter perse lo scudetto a Roma con la Lazio. Ma giorno l'ho detto io, no, me l'hanno scritto San Poborski, giocatore della Lazio. Questi sono i santi, per così dire, i culti apotropaici del calcio. Però capisco, ieri la giornata del toro, oggi è San Poborski. Va bene. Allora, cari ascoltatori, se volete, come sapete, i microfoni sono aperti, 800 24 00 24, parliamo di quello che volete. Certamente ci concentreremo su questa Unione Europea, ieri ne abbiamo parlato, no? L'ipotesi di una tassa di 50 euro a cranio, fiorino. E ieri è ulteriormente esplosa, cioè... La sanzione diventa per ogni paese che non ricolloca secondo le proprie impegni le quote stabilite dei profughi 250.000 euro a cranio di profugo non ricollocato. Sì. No, ma dai, quando si arriva. Ma ragazzi, ma sono tanti. Gli stati si rifiutano di ricollocare. 1 milione di euro ogni quattro. Di ricollocare i profughi o comunque i migranti, pagheranno, possono farlo pagando 250.000 euro a profugo o a migrante che respingono. Adesso che... io non so i nostri ascoltatori, però apriamoci chiaro. Se l'Unione Europea, per andare avanti su questa storia dei profughi, che ne ha provocato la fine di Schengen, insomma, è evidente, stiamo rimettendo i muri alle sanzioni, ma se per andare avanti ci sono sanzioni di questo tipo, beh, come dire, l'Unione Europea in quanto tale non c'è più. Non c'è più. Ma dai. Beh, ma si vede già quando il leader del partito di destra, Strache, intervistato da Repubblica, il cui candidato potrebbe diventare presidente austriaco, lo diventerà probabilmente. Ha detto: noi dobbiamo proteggersi perché la Merkel, ma anche Renzi, sono scafisti di Stato. Scafisti. Vabbè, quello che dice Salvini un giorno sì, un giorno no, più o meno. Esatto. Però, insomma, questa non è un'Europa unita. No, questa non è un'Europa unita. Ma se la risposta... E queste sono le opinioni di chi dice basta. Quindi muri, difendiamoci. Ma se la risposta dell'Europa solidale sono le tasse e le sanzioni del 250.000 euro a cranio, posso dirti che è ancora peggio? Perché gli dai ragione. Non sai dove sta più il lume della ragione. Esattamente. Tanto l'ipotesi di 50 euro invece per turisti o gente che per lavoro da fuori l'Unione Europea arriva in un'Unione Europea, questa è una proposta italiana, è ancora lì sul tavolo, non si sa. Quella dei 250.000 euro è un po' più concreta. Cioè, è un po' più concreta. Perché già, come è evidente, non stanno minimamente funzionando gli accordi. In Italia l'impegno sarebbe quello di allevarci di 40.000, no? Sì. Ne sono partiti 564. Esatto. La Germania, la tanto solidale Germania, ne ha accolti 20 dei 40.000 arrivati in Italia. Effettivamente avevano detto in pompa magna: verranno redistribuiti 1.000 in Norvegia, 2.000 in Danimarca, 3.000 di qua, 3.000 di su. Sono partiti in 564. Davvero una... Non funziona, ragazzi. Non funziona. Non funziona. Ne parleremo con Gianni Pittella, tra poco, europarlamentare, e se volete con voi. Poi, caro Oscar, lo so che io sono rimasto colpito come te, perché questo titolo l'ho dovuto leggere 6 volte. Quello il sindaco di Lodi. Ah, quello che credevo che fosse saltata la tregua tra i fratelli Berlusconi. No, invece no. No, no, no, no. No, il sindaco di Lodi, che in carcere, ammette che l'appalto sulle piscine è andato così così, ma l'ho fatto per il bene della città. Anche a me ha colpito, non troppo bene. Non vedo il nesso tra un'ipotesi di turbativa d'asta e no, evidentemente, il bene per la città. Adesso, mi dispiace dirlo, perché per carità è già oggetto di una custodia cautelare in carcere. La dichiarazione mi colpisce perché vuol dire proprio che non gli è chiaro al sindaco che il suo compito è quello di bandire delle gare che siano trasparenti e con delle regole uguali per tutti. La sola idea che lui creda di accumulare dei punti di vantaggio, di consenso, di attenuazione dell'accusa, dicendo no, ma è certo che l'ho truccata, ma nell'interesse di... no, ma tu, quando dici le ho truccate, punto, fine. Esatto. Fine, non capisco ancora, l'ho dovuto leggere 10 volte questo titolo, ma l'ho fatto nell'interesse della città. Ho sempre fatto il bene della città. Certo, basta considerare la propria parte con quella di interesse della città ed ecco qua come ragiona il politico. No, non funziona. Però devo dire che è una vicenda, come al solito, uno spaccato italiano, perché ieri il PD ha fatto un clamoroso autogol, prima facendo parlare l'avvocato Giuseppe Fanfani, ex parlamentare, membro laico del CSM, dicendo non ho letto gli atti giudiziari, ma quell'arresto non va. Ma sei membro del CSM, dici di non aver letto gli atti giudiziari, ti pronunci, poi 2 ore dopo fa una clamorosa retromarcia, no, non è vero, non lo penso. Mamma mia, che pasticci, ragazzi. Sì. Ma infatti ha fatto un po' una retromarcia, e la linea pare di Renzi sia quella: non attacchiamo i magistrati, perché non dobbiamo far vedere, non sono come Berlusconi, nonostante. Ma ho capito, però nel frattempo tutta la giornata di ieri, dalla mattina quando l'ha detto lui, era tutta piena di reazioni così. Sì. Comunque, caro Oscar, sentiamo anche i nostri ascoltatori. Mario da Reggio Emilia, buongiorno. Erano numeri e anche nomi che ci avevano contattato, forse non avevano avuto spazio nei giorni scorsi. Mario, buongiorno. Buongiorno, sono Mario da Reggio Emilia. Senta, io volevo intervenire a proposito di tutto questo casino che è venuto fuori ieri per il sindaco di Lodi, sì, eccetera, che ha favorito avrebbe favorito degli appalti, eccetera. Ma io vivo da 40 anni in Emilia Romagna. Sì. E posso dire che in Emilia Romagna la maggior parte dei consigli comunali, sindaci, assessori e cose, cioè c'è una specie di sliding door, cioè delle porte girevoli fra il mondo cooperativo e le amministrazioni pubbliche. Allora io dico questo, cioè è una cosa normalissima. Vedo che l'Italia si è scandalizzata perché un sindaco ha favorito un appalto. Ma in Emilia Romagna, ma mi sembra che sia una cosa normalissima. Male, cioè, ci sono reati, questo sono idee che lei ha, possono essere condivisibili o no, però Mario, come facciamo? Certo, però io non sto parlando di reati, però sto parlando del malcostume che c'è in Emilia Romagna, no? Che c'è della gente che fa il dirigente di una cooperativa rossa, guarda caso, per anni, poi dopo viene eletto, non so, sindaco, assessore in un comune, e poi dopo, finito il mandato, torna in quelle cooperative. Ma secondo voi quali appalti dovrebbe favorire? Cioè lei dice favorisce quelle delle cooperative. Quelle cooperative, caro... è normale, quindi non c'è da scandalizzarsi. No, ma Mario, non c'è da scandalizzarsi, questo è appena uscito anche un libro. Ecco, io volevo dire a Mario che se gli interessa questo, io non so, gli consiglio un libro che mi ha fatto veramente una raffica di pugni allo stomaco. L'editore è Chiare Lettere, si chiama Coop Connection, l'autore è Antonio Amorosi, che è stato anche assessore della casa a Bologna nel PD dal 2004-2006. È un libro che parla tutto di quello che ci ha detto Mario. Racconta questo, esatto. E devo dire, con particolari terrificanti. Se volete, oggi pomeriggio alla versione di Oscar c'è esattamente l'autore, perché con lui io ho iniziato dicendo, ma lei è... c'ha la scorta, perché per sopravvivere sicuro dopo quello che scrive nel libro. Cioè la sua tesi è addirittura che c'è un accordo, non solo come ci dice l'ascoltatore, ma c'è un accordo anche nelle regioni mafiose con i vertici delle cooperative. Insomma, leggere nomi e cognomi e vicende di questo tipo. Ce l'ha la scorta, ce lo puoi anticipare questo o no? No? Lui mi ha risposto, sì, a dire la verità, io non ho la scorta ufficiale, però ho amici, poliziotti e carabinieri. Capisci. No, sì, esatto, è questo libro che racconta proprio ciò che Coop Connection si chiama. Che Mario, quindi oggi alle 16:30, approfondirai. Intanto ci chiama anche Giuseppe da Milano, buongiorno. No, e complimenti. Grazie. Complimenti perché è riuscita a scoperchiare la pentola che è sempre stata ben custodita dai politici, ma anche dai giudici. E io ritengo che se lo scandalo riesce a uscire, finalmente in Italia si vede. Perché per tanti anni, e ve lo dice uno che per 42 anni è stato impiegato statale, laddove c'era un impiegato solerte, riuscivamo a mettere uno stop alla corruzione. Laddove c'era l'impiegato connivente, perché c'è una catena che parte dalla prima carta che si fa all'ultima che si firma. Se strada facendo di questa carta c'è uno solo anello che non è connivente, che ha un attimo di morale, un attimo di amor proprio, si riesce a far saltare il sistema. Il problema è che tutti quanti ci adeguiamo a uno Stato. Sì. Io le dico, essendo stato un contabile giudiziario dello Stato, mi sono, tra virgolette, non piegato al volere del potere. Considera che io stavo in un ambiente militare, come impiegato civile, quindi non era facile poter giostrare. Sì. Allora, quando qualcosa non andava, scusate, ma qui c'è qualcosa che non va, era sufficiente una parola per mettere in guardia, anche mettere se in voi, allarme, mettere in allarme, anche se poi mi sono trovato di fronte a un muro, una denuncia, un maresciallo dei carabinieri. Però Giuseppe, vede, è un po' la storia anche di questa signora che questa signora Uggè, che è al comune di Lodi, e come abbiamo raccontato ieri, come ha detto lei, ha visto che qualcosa non andava, ha sentito che il sindaco faceva queste riunioni nelle quali sentiva, insomma, una pressione crescente. Mi sentivo a disagio perché era evidente che non si chiedeva da me di mettere giù le regole di una gara trasparente. Esatto. E giusta. E quindi ha denunciato, e poi è partito tutto da lì. Il famoso dipendente, il whistleblower, cioè quello che segnala, appunto, che segnala che violazioni. Esatto, onesto. Ci sono due ascoltatori, vedi, caro Oscar, che dice: ah, che ipotesi, sembra certezza di turbativa d'asta. No. Facciamo quelli che siamo garantisti. No, però, cari ascoltatori, adesso io ieri ho fatto la trasmissione su, no? Dando voce a chi diceva no, questo eccesso di custodia cautelare. Benissimo, però, nelle orrende intercettazioni che abbiamo visto pubblicate, di che cosa si parla? Si parla del fatto che è avvenuto, lui addirittura chiede ai finanzieri che lo indaga, dice: ma mica mi vorrete indagare per questo, e così via. E dopodiché c'è anche, ci sono le testimonianze, le trascrizioni del come lui stia impartendo delle norme per tentare di cancellare le tracce nel computer, quindi e l'ha già ammesso. Sì, però insomma, poi aspettiamo sì, il processo. Aspettiamo il processo, però l'ha già ammesso anche lui. Dopodiché, vedi, un altro ascoltatore dice: voi non sapete come funzionano le amministrazioni. La gara era stata vinta da una società a 1000 chilometri che non si è poi presentata. Quindi il sindaco di Lodi ha cercato solo di far funzionare le piscine. No? Come dire, vedi, il bene della città. Agito per il no, bene, vedi, città. Non funziona così, nel senso che noi siamo abituati, appunto, quando ci fa comodo al sostanzialismo, quando non ci fa comodo al formalismo. Se uno bandisce una gara, caro ascoltatore, e l'aggiudicatario non è più in condizioni di ottemperare, bisogna rifarla. Esatto, appunto. Non è che dice e chiamo gli amici. Comunque, cari ascoltatori, vediamo, so che Roberto da Bergamo invece ci ha chiamato, credo, sull'altro tema, l'Europa. Magari qualcuno sarà contento che l'Europa si stia disfando. Posso dire, secondo me è più di quanti crediamo, Alessandro. Esatto, ma guarda che qualche nostro ascoltatore, finalmente, la comunità europea ci dice: come un matrimonio, tutto va bene, quando va male... Ciao. Comunque, Roberto, lei che dice? Sono sempre le donne che ci lasciano. Io è esattamente il contrario. Io sono finalmente contento che l'Europa prenda una posizione politica. Se io fossi un governo, per quanto potrebbe essere sicuramente magari sbagliato, eccessiva o opinabile, però è una decisione politica. Perché io ricorderei a quei paesi, a quelle pseudo-democrazie che hanno preso in questi anni valangate di soldi dall'Europa, che non si sono mai preoccupati di non avere la sovranità nazionale perché venivano inondati di soldi dall'Europa. E ricorderei a certi politici, perché poi alla fine sono quelli che quando vengono condannati si rivolgono alla Corte di Strasburgo, lì non dicono non c'è più la sovranità nazionale, vanno volentieri a Strasburgo. Giusto, quindi giusto. O la si prende per tutto, cioè non è una pizza, ma una pizza che uno prende il funghetto e lascia lì Che ne so, il carciofino. Però Roberto, l'impressione è che proprio un numero crescente, non solo di elettori, ma anche di governi, di paesi membri, facciano quello che ha detto lei alla fine, cioè che non prendono neanche il carciofino, oramai la vogliono chiudere sta pizzeria e non vogliono comprare più la pizza, almeno da quello che si capisce. Chiaro. Oh, ci dicono bisogna esaltare di più la signora di Lodi, ma noi la signora di Lodi, quella che ha parlato, ma noi la vorremmo anche invitare, però giustamente lei coerentemente, so che Raffaella Calandra l'ha raggiunta in storiacce, ha fatto qualche dichiarazione, però dichiarazioni brevi, perché poi dice parlano gli atti della magistratura, sì. Cioè non è che adesso non si deve neanche trasformare in quella che va in giro a fare interviste. No, ecco, esatto. Non facciamo casi maniaci. Esatto, casi maniaci. Guarda che ce lo chiedo, ma avete presente Maniaci, Pino Maniaci, quello con i baffoni, Iato TV. Teleiato, sì. Icona dell'antimafia che invece dalle intercettazioni, difeso da Ingroia tra l'altro, dall'avvocato ex magistrato Ingroia, no? Sai cosa dice? Tu lo capisci bene siciliano. Senti qua nelle intercettazioni, gli hanno ucciso i cani, cosa terribile, ma lui dice è stata la mafia, facciamoci che è stata, invece era il marito della sua amante. Ammazzò i cani, salute. Mi beccò i cani, io l'ammazzo. Ti giuro che l'ammazzo, Gioia. Se mi siete guardi, locate un peccato, sto porco! Gioia, ora succede un bordello, perché ora ne canesce che l'ammazzò oggi in bua. Ora ne esce che è un atto intimidatorio a pedofaniace, ora ascoltamelo. Capito? Ora un bordello succede. Ora esce, mica che l'ha ucciso, dice anche il nome, quindi proprio... Ma dice... Ora esce che è stata la mafia, perché ora mi danno la scorta. Vabbè. A perenne monito a noi stessi giornalisti di tenerci sempre appollaiato sulla spalla il senso della misura di quello che facciamo. Ecco. In ogni caso, continuiamo a parlare di Unione Europea, tra poco avremo Gianni Pittella. Guardate che Gianni Pittella è uno dei maggiori sostenitori di quel Migration Compact, stavo dicendo Fiscal Compact. Ma è perché, siccome si paga anche di... Migration Compact, cioè raccattare dei soldi, magari con le tasse, 50 euro le a cranio, tasse, gli euro bond, per bla bla. Sostenere gli stati da dove partono questi paesi. E niente, stati ormai africani. Europa uguale debito. Ecco, questo... E tasse. Mettiamo il canone Rai, sì, per il Migration Compact in bolletta, magari elettrica, sì, anzi del gas, così a quel punto l'apriamo, ci avviciniamo, inaliamo e crepiamo. Va bene, tra poco siamo qui, alle 8:41 minuti, caro eccoci qua. Allora, leggevi sul Messaggero che Renzi è un po' arrabbiato proprio per questa declinazione. Per questa declinazione tutta, come dico, tasse e sanzioni, 50 euro per finanziare da chi entra nei paesi europei, 250.000 euro per chi non ricolloca, cioè che tutta la gestione del pacchetto profughi migrati per quello che riguarda la parte intraeuropea, mentre per quella esterna dovrebbe funzionare, ma vediamo l'accordo Turchia-Grecia, ma demandarla tutta a questo aspetto sanzionatorio è il pare confermato, dicono quelli del Messaggero, che la presidenza del Consiglio italiano dica ma insomma i tedeschi vogliono, ce la mettono tutta per dare una mano con tutte queste sanzioni monetarie a chi? Ai populisti che dicono che siamo morti. Sì, perché se uno la pone o accogliete i profughi cari stati o li ridistribuite o vi tassiamo, vi multiamo 250.000 euro a persona rifiutata, cioè quindi nei rifiuti 100 sono 250.000 euro per 100. Cioè 25 milioni di euro, per dare un ordine di grandezza. Esatto. E poi questa tassa 50 euro per chi arriva dall'estero nell'Unione Europea, insomma è una declinazione che dà la spinta ai populisti, no? La spinta ai populisti, perché dice come si vede una convergenza politica non c'è, visto che bisogna regolare tutto coi soldi e con le sanzioni, e a quel punto vuol dire che oramai la divisione tra paesi è eclatante. Del resto è abbastanza vero che è eclatante, cioè io non so più dire se sia la divergenza per accontentare le opinioni pubbliche interne il vero aspetto separatorio, o inseguire la divergenza e i toni elevati come quelli dell'intervista a Repubblica che ricordavi prima del candidato alle presidenziali austriache. Se le rincorriamo però con questi metodi che a propria volta le rafforzano, cioè è diventato una specie di gatto che si morde la coda. Sì. Ne parliamo con il presidente del gruppo socialista e democratici al Parlamento europeo, Gianni Pittella. Buongiorno e bentrovato Pittella, eccoci qui. Buongiorno a voi, buona mattinata. Uno dei più grandi fautori, possiamo dire, di questo Migration Compact, no? Di questa proposta, anche complessa, che ha vari spunti. Però colpisce Pittella questa storia dei 250.000 euro, ma è giusto davvero multare gli stati che... Io non sento bene. Sento bene perché sono sul treno. Allora, la proposta di 250.000 euro, la multa agli stati, è una cosa che la convince? Il treno si è inghiottito, le convinzioni. Il treno, tra l'altro, è per una volta il treno è il Parigi di Bruxelles, però il ponte evidentemente. Ponte ma tra l'altro ci chiedono a chi andrebbero questi 250.000 euro? Beh, credo nel bilancio dell'Unione, cioè dell'Unione Europea. No, entrano nel bilancio dell'Unione Europea e servono però a finanziare in larga parte le spese aggiuntive del paese. Che, al quale non è stato levato il sovraquota. Sì, perché funziona così, diciamo, il trattato di Dublino vuol dire che chi ha i migranti se li gestisce, ma se sono in eccesso vengono redistribuiti. Se un paese si rifiuta di accoglierli paga 250.000 euro. Questi soldi immagino che andranno al paese invece che se li deve tenere per gestirli, insomma, mi sembra anche abbastanza. Sentiamo, ci chiama intanto Francesco dalla provincia di Lucca, però sul tema credo del sindaco di Lodi. Buongiorno Francesco. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino, e vi premetto subito che il reato c'è, perché non vi voglio far arrabbiare, perché vi amo proprio. Comunque, ma ci faccia arrabbiare, si litiga anche l'amore, non è che... Volevo dire che quello che ha fatto il sindaco di Lodi, anche se è reato, è normale. Nelle gare d'appalto è normale, perché fate il conto, è come quando voi dovete fare un lavoro in casa e dovete chiamare un muratore. Si presenta un signore che ha fatto un sacco di lavori con una bella macchina, un professionista, magari al di là del prezzo vi riempie più l'occhio. Se si presenta un signore tutto scalcinato, con una macchina scalcinata, che vi racconta un sacco di cose poco credibili, il lavoro lo fate fare male. Così il sindaco di Lodi ha favorito una cooperativa che magari gli dava più garanzie. Il sindaco di Lodi, però Francesco non è un privato che si deve rifare casa, gestisce una cosa pubblica. Che si sceglie l'idraulico con i soldi di tasca sua. Se io mi scelgo l'idraulico e sbaglio, sono mi picchia mia moglie. Sì, a casa mia faccio quello che voglio. Se invece con i soldi pubblici il sindaco tarocca la gara e lo ammette, deve pagare. Questa è la differenza. La cosa pubblica, Francesco, poi che sia che lo facciano anche altri, sono reati. Va bene, Pittella. Però posso dire un elemento di riflessione. Vedi quante telefonate ci arrivano. Queste telefonate, e non sto polemizzando con voi, avete forse probabilmente ragione, fotografano un altro aspetto dell'età. Cioè, tutti lo diamo più o meno per scontato. Sì, per scontato. E cioè, è ovvio che il sindaco chiama gli amici suoi. È ovvio, no, cari ascoltatori. È finita se ragioniamo così. Pittella, ci sente? Abbiamo ripristinato la linea? Sì. Allora, questa multa di... ci mancherebbe. 250.000 euro a persona rifiutata da parte degli stati. Si ipotizza... questa cosa è sui titoli dei giornali, ma è davvero una cosa, una linea da tenere, secondo lei? Ma guardi, questo fa parte della revisione delle regole di Dublino che noi abbiamo chiesto come socialisti da molti anni. Finalmente c'è una proposta, ringraziamo la Commissione. Poteva essere più ambiziosa, cercheremo di migliorarla nel corso dell'iter parlamentare. Perché si parla di questo contributo? Io non la chiamerei sanzione. Diciamo che bisogna affermare il principio della solidarietà. La solidarietà nei confronti degli stati e nei confronti dei migranti si può manifestare in due modi: o accogliendo queste persone, facendole vivere in maniera dignitosa, cosa che fa l'Italia, che fa la Germania e altri paesi. Oppure, se ci sono paesi che sono cocciutamente contro l'accoglienza, questi paesi devono contribuire. È una sanzione, perché questi paesi si rifiutano di prendere. E quindi, poiché si rifiutano, e diciamo, nonostante tutte le spinte politiche, le pressioni politiche, ci sono gli Orban, ci sono i Fizzo, ci sono la premier polacca, queste persone sono state elette democraticamente, quindi non è che possiamo dire che questo l'abbiamo spiegato quando democraticamente un potere e si sono opposti al principio dell'accoglienza. Ora, siccome stiamo in un'Unione Europea, Questi stati, puniamo. L'abbiamo spiegato quando lo abbiamo spiegato, questo è chiaro. La domanda che noi le facciamo devono è un'altra: contribuire all'accoglienza in altro modo, sì. Perché non è possibile. Cioè, pagando, cioè, o accolgono o pagano. Aspetti, che Oscar Giannino le vuole fare una domanda. La domanda che le facciamo, chiarito questo, il principio, il motivo, eccetera. Chiarito questo è 250.000 euro a cranio nei paesi dei leader che lei ha citato, cioè quelli più pieni di contrarietà a condividere l'accoglienza. Non hanno forse, questo è il nostro interrogativo, l'effetto di dare un'arma ancora più appuntita a chi dice: ah, avete visto, l'Europa per di più pretende da noi pure i milioni di euro e non solo, come dire che non siamo liberi di seguire la nostra politica? Ecco, questa è la domanda. Sì, ma il problema non è che le istituzioni europee devono fare le scelte in base al calcolo se queste scelte aiutano o meno questo o quel partito, questo o quella formazione. No, se aiutano o meno alla credibilità europea dell'accoglienza, perché il rischio è che esacerbando ulteriormente si spacca tutto. Il rischio, dico, è non il nostro auspicio. Ma guardi, il problema è questo: noi dobbiamo assolutamente accogliere queste persone, perché questo è un fenomeno strutturale e non congiunturale, e non è che alzando i muri risolviamo il problema. Allora, ci saranno 10 stati che si cureranno dell'accoglienza. Questi stati devono avere un contributo dagli altri, altrimenti che significa stare nell'Unione Europea? Se il contributo può venire attraverso una misura finanziaria, va bene, e sarebbe stato certamente molto meglio se fosse avvenuto attraverso l'accoglienza anche da parte della Polonia, dell'Ungheria, della Slovacchia e degli altri. Sì. Ma lei, Pittella, sarebbe favorevole anche a questa tassa invece da 50 euro per turisti o chi viene per lavoro dentro l'Unione Europea? Questa cosa sinceramente mi è poco alarmante. Il treno, aspetti che il treno, no, ce lo ridica, perché il treno si è mangiato un po' le parole. È favorevole o no? Non si era, no, era no, un, no, che dobbiamo fare? Era un po' di ironia. Questo è. Vabbè, non lo sapremo se è favorevole o no, vediamo se lo recuperiamo. Intanto c'è Massimiliano da Monza che ci chiama. Massimiliano, possiamo chiamare per chi? Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, premetto che io ho sempre votato Lega, quindi non mi metto a fare l'avvocato difensore del sindaco del PD. Però io capisco, facendo un piccolo amministratore in un piccolo comune della Brianza, anche le ragioni di chi cerca di portare avanti della continuità dei servizi, anche a costo alcune volte di rischiare, di forzare la mano. Guarda, questa storia della trasparenza è sicuramente una cosa necessaria e doverosa con tutto quello che è successo nel paese, ma attenzione, perché alcune volte l'eccesso di trasparenza rischia di costare nei comuni più della corruzione. Alcune volte gli amministratori sono costretti a fare delle gare d'appalto per sostituire canestri che costano 500 euro, spendendone 5.000, 2.000. No, Massimiliano, io posso capire, Massimiliano, non so se Oscar è d'accordo, che l'eccesso di burocrazia che imbavaglia, che imbriglia, a volte rischia magari di far bloccare dei servizi, dice: porca miseria, io se devo stare a tutto quello che la burocrazia dice, no, devo un po' forzare la mano. Però qui è una cosa un po' diversa, forse non è un eccesso di burocrazia, cioè un'ipotesi di reato, è una gara d'appalto. Ma poi, perdoni, e qui io adesso non lo so quanti hanno avuto, perché lo capisco, la gente c'ha da fare, lavora, non c'ha il tempo davvero per approfondire tutto. La vice, insomma, prendiamoci chiaro, il sindaco doveva coprire una gara nata male fin dall'inizio, ai tempi in cui il sindaco era un altro, cioè era Guerini, il vice segretario del Guerini, sì. Che per una piscina, diciamo, rilevante per una cittadina di 45.000 abitanti, fa un bando di gara in cui alla fine sta cooperativa amica c'è, però poi si chiede a un'azienda privata di iniziare a mettere dei soldi, quindi innanzitutto. I privati a un certo punto iniziano a sfilarsi per i ritardi e quindi subentrano degli altri, quindi c'era un pasticcio da coprire. Allora, scusate, l'interesse della città, io non capisco se sia coprire gli interessi di una scelta del sindaco precedente, per carità, sì. Posso capire che in un partito ci sia la solidarietà, però di questo magari stiamo parlando. No, Pittella, l'abbiamo recuperata, mancano due minuti. I 50 euro a persona, è una tassa giusta? Allora, o no? Stavo dicendo che la proposta italiana del Migration Compact, che finalmente prevede interventi per l'Africa, perché se vogliamo ridurre i flussi dobbiamo intervenire lì, dice dobbiamo trovare le risorse, sì, perché dare 1,7 miliardi all'intera Africa e dare 6 miliardi alla Turchia è ridicolo. Per trovare le risorse l'Italia propone gli eurobond. Gli eurobond fanno venire l'orticaria, l'allergia, gli tedeschi. Allora, ai tedeschi. Dopo, io non so perché, però insomma è così, e che vogliamo fare? Beh, debito, ai tedeschi è noto che l'idea del debito non piace. Sì, capisco, però voglio dire, la condivisione del debito secondo me è una cosa giusta, però adesso apriremmo un dibattito troppo ampio. Allora io dico alla Commissione europea, se gli eurobond non sono uniti, diciamo, non c'è unità sugli eurobond, si trovi un'altra formula, perché abbiamo bisogno di almeno 10 miliardi di euro per investire in Africa, perché se non creiamo condizioni di stabilità in Africa, continueranno di cooperazione tra... Non risolviamo nessun problema. E una proposta è questa, i 50 euro, quindi lei la sostiene, da qualche parte i soldi vanno trovati. Di questa proposta ne sento parlare in questo momento. Ho detto, per me vanno bene gli eurobond. Se i tedeschi dovessero continuare a dire di no sugli eurobond, spetta la Commissione europea a fare un'altra soluzione. Un set di proposte che siano credibili. Le valuterete? No, certo, però insomma la sente da noi sui giornali italiani. Non l'abbiamo nottetempo pensata nel think tank Milan Giannino. Cardinali Milan Giannino. E io volevo proporti una cosa indiana. In India hanno deciso chi non paga le tasse, devi sapere che in India sono 1,2 miliardi e pagano le tasse solo il 3%. In India il 3% di 1,2 miliardi è bel paese, però detto questo, quindi c'è un'enorme evasione fiscale. A un certo punto ci sono alcune autorità che stanno decidendo delle, non le sanzioni, non serve a niente. Mandano i tamburi sotto casa di chi non ha pagato le tasse. Per non farti dormire. Per non farti dormire. Allora, posso dire che se non paghi le tasse arrivano i tamburi. Niente sanzioni, ma rotture di coglioni. Chi non paga le tasse? Metus sociale, niente galera, sanzioni, tamburi. Va bene. Bum bum bum bum bum. C'è sempre da imparare. A domani.